Questa qua invece è la sala del laboratorio ricreativo e in questa sala vengono del colore. Consigliosa! E infatti tutti questi quadri che potete vedere sono stati fatti da Sabino, da Fabio, da tutte persone che vengono qui al centro insieme a delle volontarie, perché è molto importante il volontariato in questi centri, come dicevamo all'incontro, perché il volontario fa proprio da ponte tra l'interno e l'esterno, no? E questo qua ad esempio è stato fatto insieme ad un'altra volontaria, è stato presentato con la Nadia, sì, e è stato presentato al Festival della Polenta a Storo come uno degli spaventapasseri. Poi qua abbiamo le statuine del nostro presepe che verrà fatto di sotto, che sarà fatto un presepio fatto con elementi di riciclo e sarà un po' un presepio futurista, non so se avete visto di sotto c'è la Natività messa in una televisione vecchia. E tutte queste attività proprio vengono fatte grazie al volontariato, infatti noi nella nostra realtà abbiamo un buon numero di volontari. Ecco di qua.